Care amiche e cari amici, benvenuti a un episodio extra, un episodio speciale del podcast dedicato alla storia dell'Arma dei Carabinieri. Se volete scoprire la storia dei Carabinieri e con questa chiave di lettura la storia d'Italia, siete nel posto giusto. Come sempre, vi ricordo di seguirmi sul canale Instagram Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. L'episodio di oggi costituisce una eccezione alla normale organizzazione degli episodi a cui vi siete abituati. In questo caso si tratta di un'intervista a un grande e riconosciuto storico dell'Arma dei Carabinieri, il generale Vincenzo Pezzolet. Il generale Pezzolet ha lavorato a lungo presso l'ufficio storico del Comando Generale dell'Arma e presso la redazione dell'ente editoriale dell'Arma dei Carabinieri, rivestendo l'incarico di direttore responsabile della rivista Il Carabiniere, e non ha bisogno di presentazioni. Ha pubblicato alcuni volumi sulla storia dell'arma, in particolare la serie Rosso, Argento e Turchino, dedicata proprio alle uniformi e agli equipaggiamenti dei carabinieri. Oggi continua a prestare la sua opera in qualità di direttore responsabile della rivista Le Fiamme d'Argento, organo di informazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Caro Vincenzo, innanzitutto ti sono grato di aver accettato il mio invito a prender parte a questa chiacchierata. Dalla fine di maggio ho avviato un canale podcast chiamato Storia dei Carabinieri, con l'intento di diffondere la storia dell'arma e in particolare degli uomini che hanno indossato uniforme nera. Proprio a proposito di uniformi, è stato pubblicato un primo episodio sulle principali caratteristiche delle uniformi per questo giovanissimo corpo dei Carabinieri Reali. Altre attività saranno in fase di realizzazione per coprire il periodo storico fino all'Unità d'Italia. Ora, grazie alla tua disponibilità, vorrei discutere con te delle uniformi dei Carabinieri Reali proprio per il primo periodo della loro storia, dalla Restaurazione all'Unità d'Italia. Grazie a te, caro Flavio, e grazie a quanti ci ascoltano e hanno la pazienza di sentire questa intervista. Sono pronto. Se sei d'accordo, partirei dalla prima uniforme in uso ai Carabinieri Reali, quella di colore turchino che ha segnato i primi anni di vita del corpo. Dunque, a tuo giudizio, perché quel colore? C'è un legame con i colori della casa regnante? E il cappello, così alto, che significava? L'aggiunta del pennacchio, ancora più alto. Quali sono le ragioni, a tuo giudizio? Perché dotare i carabinieri delle cordelline che impreziosiscono l'uniforme degli ufficiali sin dai primi anni di vita dell'istituzione? E perché poi darle anche ai carabinieri? Che valore avevano sulle uniformi del tempo? Allora, guarda, per quanto riguarda il colore dell'uniforme, il turchino scuro, è un colore all'epoca era ormai divenuto tradizionale per tutti i corpi dell'Armata Sarda, perché l'Armata Sarda cambiò le uniformi da bianco-grigiastro a turchino già nel 1750, probabilmente perché a quell'epoca c'era la guerra di successione spagnola contro i francesi che vestivano uniformi dello stesso colore, quindi sai, poi il colore delle uniformi dipende anche dai modelli di riferimento. A quell'epoca andavano molto i prussiani, Federico II, quindi insomma, che usava il blu di Prussia, poi appunto. Quindi questo per quanto riguarda l'abito. Per quanto riguarda il cappello, il pennacchio, ora il cappello alto è stato tradizione delle gendarmerie in genere fino al XIX secolo inoltrato, tant'è che alcune ancora le portano oltre noi, per esempio la Guardia Civile spagnola c'ha quel cappellino che è un po' simile al nostro, ecco, perché era tradizionale. Comunque all'epoca il cappello così alto era di tipo napoleonico, era Napoleone che si era inventato queste cose, perché le uniformi all'epoca erano molto molto sgargianti, dovevano così imbellire, dare un impatto emotivo particolare al soldato, quindi alamari, quindi colori, e anche questi cappelli alti, che pennacchi, anche il cappello, quindi aveva il cappello a due punte che poi deriva dal tricorno settecentesco, anche il cappello aveva subito questa mutazione che ha mantenuto ancora nel 1814, chiaramente era esattamente lo stesso della gendarmeria napoleonica, poi non cambia molto, il re Vittorio Emanuele I fa i cambiamenti che può inizialmente, poi piano piano infatti si assiste a tutta una serie di cambiamenti che incominciano già nel 1815 e arriveranno fino al 1843, una serie di cambiamenti. Quindi il cappello è per quello. Per quanto riguarda il pennacchio, sì, c'è un legame stretto con la casa reale, perché sono due i colori ovviamente di Casa Savoia, dinastici. Sono il rosso in primis, ma ce lo avevano le guardie del corpo, colletto e paramani rossi, il rosso era proprio delle guardie del corpo e della guardia reale, che poi si chiameranno granatieri della guardia reale, eccetera, ma la guardia reale aveva il rosso perché erano proprio... Però i carabinieri venivano subito secondi, primi rispetto a tutti gli altri, subito secondi alla guardia reale e alle guardie del corpo. Quindi ebbero comunque il paramano celeste e il colletto celeste, guarda, è una tradizione fino all'epoca dei corpi di polizia avere questo colore celeste, non si capisce bene, non sono riuscito francamente a vedere perché il celeste, perché non era blu de roi, non era azzurro Savoia, era un celestino che evidentemente distingueva o aveva distinto fino a quel punto le gendarmerie, insomma gli organi di polizia, infatti cambia subito. Il pennacchio fu adottato nel 1818 e lo riscontriamo ancora nelle guardie reali e lo riscontriamo nelle guardie del corpo e in altri corpi dell'armata sarda. È l'azzurro, è il secondo colore dello stemma dinastico, che è l'azzurro, certo. Colore della Madonna, che loro erano molto devoti, Savoia, eccetera, eccetera, eccetera, la storia è abbastanza nota. Paramani, abbiamo detto celestino, colletto, paramani, come ti dicevo c'è tutta una serie di variazioni. Intanto cominciamo a dire, per esempio, la granata famosa, la nostra fiamma, non appare sul cappello che nel 1833, ma sulle falde, non c'è scritto da nessuna parte, ma c'è un documento che ha l'ufficio storico della corrispondenza tra il sarto del corpo e il comandante del corpo, dove parla di granate, per esempio, alle falde. Quindi già i bottoni nel 1815 erano certamente stati sostituiti dalle granate. Poi il panno, specialmente nel 17, 18, 19 e 20, cominciano. I gradi nel 17 vengono aboliti, prima i gradi non erano solo la spallina, ma erano al paramano e al colletto, e vengono aboliti. Nel 18 il penna, e viene per gli ufficiali addirittura messo un ricamo a catenella. Per, dicevamo, il pennacchio viene introdotto nel 1818, poi c'è tutta una serie di variazioni su tutta l'armata nel 19 e nel 20 sulle mostreggiature. A quel punto molti cambiano i paramani a colore con quelli turchini, cioè dello stesso colore. Probabilmente, caro Flavio, si trattò di una questione di spesa, perché certo. il Piemonte stava sempre sull'orlo dell'abisso, sull'orlo del baratro come finanze, quindi doveva risparmiare, e allora facevano tutto un panno e via, così avevano solo un colore in più, le risvolte rosse, il rosso, lo scarlatto degli risvolti e l'interno della fodera, poi il resto era tutto turchino e risparmiamo. Per quanto riguarda le cordelline, mi dicevi, le cordelline furono date inizialmente a tutti, anche se nel cenni non si riscontrano, però in realtà se andiamo a vedere su certi figurini che stanno alla Biblioteca Nazionale, la Biblioteca Reale di Torino, ci sono già, questi sono del 16-17, sì, sì, sì. Per tutti. Le cordelline non si capisce bene, cioè ci sono tantissime storie su queste cordelline. E chi dice che fossero le corde che si portavano per legare in fascio la legna per fare fuochi, e da qui anche l'aiutante di campo del generale, del comandante, che ha queste cordelline, il foraggio. Altri invece dicono che servissero, che la fanno risalire esattamente al XVI secolo, fine del XVI secolo, parebbe che gli spagnoli, i soldati spagnoli nelle Fiandre, durante la guerra delle Fiandre usassero queste corde che portavano per le tende, per piantare le tende, talché queste corde inizialmente non avevano i puntali così, un orpello, avevano proprio dei chiodi. Quindi ci sono mille ed una storia o favola su queste cordelline. Poi divennero ovviamente, come tantissime cose che hanno un inizio soprattutto nel mondo militare, soprattutto nell'abbigliamento e nell'equipaggiamento militare, alcune cose nascono, alcuni oggetti nascono con valore funzionale, poi diventano delle distinzioni. Le spalline, quelle di stoffa erano per i gradi, ma quelle di metallo erano per i colpi di sciabola, poi diventano in seguito anche delle mostreggiature belle da vedere, e così i corazzieri, il pennacchio e la coda di cavallo, pure quelle devia i colpi di sciabola, e poi dopo diventa, certo. È chiaro, queste cose. Quindi le cordelline diventano un segno distintivo, e i carabinieri hanno queste cordelline ovviamente bianche, di filo o d'argento a seconda del grado, perché hanno i bottoni bianchi, perché è tutto abbinato, certo. Il bianco è colore nobile, è superiore all'oro, l'argento araldicamente è superiore all'oro, quindi bottoniere bianche e cordelline ovviamente bianche, con puntali bianchi d'oro per gli ufficiali superiori. Io non ti nascondo che ricordo anticamente, quando mi iniziai a avvicinare a questo, mi ricordo che da noi si raccontava che l'uso delle cordelline, soprattutto dei puntali, era legato al fatto che il corpo o l'istituzione di riferimento dovesse utilizzare quasi a mo' di penna. C'era pure questa cosa che girava all'epoca, quindi serviva a individuare un po' chi aveva, come dire, qualche competenza anche, come dire, operativa in più, no? Qualcosa doveva firmare, ecco, e questo era un altro legame. È vero, è verissimo, c'era anche questo ecco. Ascendente. Grazie. Passerei ora a fare qualche considerazione sulle uniformi collegate descritte nel regolamento generale del 22. Scompare la presenza del celeste, che nella prima uniforme era un colore di una certa importanza, mentre stabilizza il panno di colore turchino insieme ad elementi già presenti nel breve passato del corpo dei carabinieri reali, come il cappello così alto. Come mai si dia questo mutamento? Forse già l'hai enunciato prima, ma magari possiamo dedicare ancora un po' di spazio. Perché si sceglie di far passare in secondo piano il colore celeste? C'è qualche ragione specifica? Chiaramente possono anche esserci ragioni di carattere, diciamo, economico-amministrativo. In realtà mi pare che l'uniforme non abbia particolari cambiamenti, ma comunque la tua parola in questo caso è importante. Allora, come dicevamo prima, probabilmente e come hai accennato tu, probabilmente si trattò di ragioni economiche per cui perché furono aboliti anche altri colori per altri paramani di altri corpi dell'Armata Sarda, quindi probabilmente fu un problema legato a situazioni amministrative di risparmio, il fatto del celeste. Per quanto riguarda il regolamento del 22, il regolamento del 22 in pratica riassume tutte quelle varianti che ci sono state e che ti dicevo, e che cominciano il 15, 17, si protraggono 19, 20, 22. In particolare, ecco, c'è da segnalare questo: il taglio dell'abito. In realtà, il taglio dell'abito, così dritto come ancora è oggi, non fu del 33, ma in realtà incominciò già nel 18, 19, nel 19, 20. Già il taglio all'austriaca, che la prima uniforme ha quel taglio anteriore aggarbato, graziato, rotondo e le falde corte, che è tipico delle uniformi austriache di quel tempo. E d'altra parte, per forza che si rifacessero gli austriaci, mantennero il turchino che già aveva mantenuto la gendarmeria napoleonica e che avevano, come ti dicevo, già dal 1750, ma il taglio era come quello delle uniformi bianche austriache, perché ovviamente erano gli austriaci che poi avevano rimesso sul trono Vittorio Emanuele I, è chiaro. E quindi il taglio fu all'austriaca, però ecco, già nel 20, 21 e nel 22 poi non lo dice, però In realtà dall'iconografia e da tante cose sappiamo, vedendo le variazioni del 19 eccetera, sappiamo che il taglio fu dritto, le falde si allungarono un po', prima erano veramente molto corte, si allungarono un po', non come quelle di ora che sono lunghissime, però diciamo si allungarono un po'. Sai, volevo dirti quest'altra nota. Tante cose poi, tanti dettagli, tanti capi subiscono delle variazioni anche non codificate. Per esempio, il colore blu, il turchino, virtualmente si è mantenuto fino ai giorni nostri, in realtà poi è diventato nero, ma è stato codificato soltanto nel XX secolo questo nero. Perché fino ancora agli anni 70-80 era chiamato turchino e in effetti in parte le uniformi erano turchine, ancora negli anni 50-60. Quindi ecco, però poi diventa nero fino a che non viene modificato. E la stessa cosa per esempio per il cappello. Il cappello subirà delle modifiche nel 1848, non si sa quale, perché c'è un documento all'ufficio storico, una circolare del comando generale che dice le modifiche al cappello, ma presumo che siano quelle di abbassarlo un pochino. È un dato di fatto che viene praticamente sanzionato con un documento, ma viene sanzionato un dato di fatto. Adesso, per esempio, il cappello non c'è scritto da nessuna parte come deve essere ed è sempre più piccolo. Io ce ne ho uno mio di tanti anni fa che ha le falde un po' più alte di quelle attuali, è sempre più piccolo, è sempre più ristretto. Perché? Dove è scritto? Da nessuna parte. E piano piano le sartorie che certo, in qualche modo dettano la moda. Però in quel periodo il sarto doveva fare riferimento a, diciamo, i modelli che erano imposti dal comando del corpo. Sì. Quindi c'era una regola che era dietro. Poi immagino che il 48, le trasformazioni anche albertine e altro cambino naturalmente molto. E sul regolamento generale possiamo dire in realtà che anche per uniformi il regolamento generale riesce a sintetizzare e raccogliere in un'unica disposizione una normalizzazione, perché ecco, l'abbiamo sostenuto in un altro episodio della serie tradizionale del podcast, che la grande funzione del regolamento è quella di mettere insieme tutte le norme che si sono prodotte tra la fondazione del corpo e il 22, con l'obiettivo di dare effettivamente quello che noi lo consideriamo il regolamento generale, cioè un testo stabile, diremmo permanente, o comunque diciamo capace di dare piccole modifiche e di essere, come dire, di lunga durata nel corso della storia dei carabinieri. Certo, il regolamento generale del 1822 è un documento fondamentale ed effettivamente, come hai detto tu, è un compendio. È un compendio di tutto quello che riguarda l'arma dei carabinieri, dalle norme comportamentali alle norme al servizio di caserma, all'equipaggiamento, al vestiario. È un riferimento, tutto viene da quello. Quella è la codifica base di tutto l'impianto dell'arma dei carabinieri. E mi pare adesso, poi passiamo subito, torniamo agli uniformi, mi pare che in realtà poi, continuando a rileggere il regolamento generale, ci si muova prima al regolamento di istruzione di servizio 92 e poi al regolamento generale per l'arma del 1912, che continuano a trascinare questa necessità, cioè di mantenere in un unico manuale, in un unico strumento normativo, quanto più possibile le disposizioni che riguardano l'arma dei carabinieri, come hai detto te, sia per l'equipaggiamento, sia per l'uniforme, sia per lo svolgimento del servizio, certo, e via dicendo. Certo, sicuramente così, sicuramente così. Grazie mille. Ora mi piacerebbe osservare con te, diciamo, o almeno accennare alle introduzioni più importanti in età albertina. Mi sembra, io qui mi rimetto alle tue mani, che le principali mutazioni siano nell'uniforme, l'adozione del pennacchio rosso e blu e finalmente, in maniera molto più aperta rispetto al passato, della granata con la fiamma. Il cappello si riduce e questo, ecco, forse abbiamo accennato prima, probabilmente guarda anche delle esigenze operative dei carabinieri. Tu hai parlato del 48, immagino la prima guerra d'indipendenza. Come cambiano gli uniformi nell'Armata Sarda in questo periodo così complesso? Carlo Alberto ha intenzione, o secondo te ha dato un suo contributo particolare all'esercito introducendo un suo stile, e ha introdotto qualcosa anche di suo negli uniformi dei carabinieri? Cosa ne pensi? Sì, assolutamente. Carlo Alberto era un appassionato, aveva il vero e proprio, come si dice, chiodo fisso sugli equipaggiamenti e l'amministrazione. Era proprio il suo pallino. Quindi la prima cosa che ha fatto appena è salito al trono è proprio porre mano al regolamento di amministrazione, al regolamento e al regolamento dell'Armata Sarda. Quindi ha fatto questo documento che contempla le uniformi, gli equipaggiamenti da generale, tutto, fino alla marina, tutta l'intera struttura dell'Armata Sarda. Per quanto riguarda non solo i carabinieri, ma anche gli altri corpi, sono stati mutamenti fondamentali, estetici, ma soprattutto, come dicevi, operativi. Basta con i pantaloni napoleonici, basta con i pantaloni settecenteschi, collanti, come si dicevano dal francese collant, aderenti. No, si cominciano a portare i cosiddetti pantaloni flosci, cioè come quelli di adesso, cioè il pantalone che noi tutti conosciamo. Basta con l'apertura, la finestrella sul davanti, con la patta, cioè cambiano il pantalone e quindi vengono introdotte, per quanto riguarda i carabinieri, oltre a questa variazione, intanto le bande laterali, le bande laterali scarlatte, doppie per la cavalleria e per gli ufficiali, che sono sempre a cavallo. Ricordiamoci, gli ufficiali dell'arma dei carabinieri sono a cavallo da sempre. E una banda sola per i carabinieri a piedi. Le buffetterie vengono sempre mantenute ad incrocio per i carabinieri a piedi, sovrapposte per i carabinieri a cavallo. Viene introdotto questo pennacchio rosso-blu, quindi viene dato al corpo all'epoca ancora dei carabinieri reali proprio tutti i colori della dinastia, non solo l'azzurro, che era colore secondario dei due, ma anche il rosso, che non a caso è sovrapposto all'azzurro. Questo è una cosa importantissima. Per quanto riguarda la fiamma, l'emblema, sì, è vero, a parte le code, come avevamo già detto, anche gli ufficiali ebbero la granata alle code, ai risvolti. Prima avevano le cifre reali, avevano il monogramma reale. Quindi hanno anche loro le granate, e la granata sul cappello. Da quel momento, sempre su tutti, cappelli, berretti. Una cosa particolare da considerare è anche l'abolizione la conferma fino al 1842, mi pare, del berretto di fatica, che è particolare, ce l'hanno solo i carabinieri, il berretto alla polacca, quadrato, con sopra il nastro bianco di seta, quello che è. Che è molto molto particolare, non si capisce, non si sa, non c'è scritto, non capiamo perché i carabinieri portassero quel berretto, forse era una cosa di distinzione particolare, non si sa, perché le altre truppe portavano invece il classico, consentimi, berretto da notte, quello col pompon, che poi veniva giù di lato, ecco. Quindi questo è importante, e ci sono anche altre variazioni, come l'abolizione degli stivali, l'adozione degli stivalini, tutta una serie di cose. L'unificazione dell'armamento, già dal 22, la carabina o un moschetto per tutte e due le armi, a piedi e a cavallo. Il fucile, tieni presente che viene dato ancora in dotazione, ma è come arma di reparto. Ancora adesso i nostri carabinieri, per esempio gli allievi, avevano la R70-90, adesso hanno un altro, ce l'hanno comunque, poi dopo in realtà hanno poi la M12, sì, o quello che è, prima avevano un moschetto, quello che è. però come dotazione di reparto il fucile ha continuato ad essere distribuito, però l'arma era la carabina, il moschetto. Altra cosa, le varianti poi si susseguono successivamente, poi prima arriveranno prima delle guerre di indipendenza. Intanto nel 1933 queste sono quelle fondamentali. Ecco, proprio questo mi interessa. La prima guerra di indipendenza, la campagna di Crimea, la seconda guerra di indipendenza hanno degli effetti sulle uniformi dei carabinieri? Cito l'esempio raccolto dai bersaglieri in Crimea con l'adozione del Fez, per esempio, della sciabola con l'elsa così diversa da quella dei restanti corpi di esercito. Ci furono esperienze operative o contatti con altri corpi simili all'arma che portarono a qualche cambiamento? No, io non lo so, naturalmente è una domanda che pongo anche in maniera un po' provocatoria e penso alla possibilità che i carabinieri si siano confrontati con i gendarmi prevotali dell'esercito imperiale francese della seconda guerra d'indipendenza, per esempio. Ma mi rivolgo sempre a te con molta umiltà. Allora, no, diciamo che non fu la guerra del 48, del 55, del 59, le guerre di indipendenza e la Crimea, non portarono nulla perché tutto era stato portato poco prima. L'altra variazione forte ci fu nel 1842-43 e fu l'adozione dell'abito, del vestito, chiamiamolo così, comunque la marzina, noi oggi chiamiamo marzina, a doppio petto. Quindi nel 42, nel 43 la marzina a doppio petto, poi l'adozione dei pantaloni grigi con la banda turchina come pantaloni, chiamiamoli così, di fatica o di servizio fuori residenza, si diceva, cioè le perlustrazioni, oppure in servizio di campagna quando si andava, ecco che nel 48, nel 55, nel 59 i carabinieri, quelli che non erano di scorta al re nel momento in cui facevano la scorta, che erano sempre in grande uniforme, vestivano l'uniforme di servizio, chiamavano così, di fatica, di servizio sul campo, quindi non pantaloni turchini con bande rosse, ma pantaloni grigi, grigio particolare che i regolamenti chiamano grigio marengo, che direi, lo definirei una specie di grigio carta da zucchero, di media tinta, con bande, doppia banda turchina, ce l'avevano solo quelli a cavallo, quelli a piedi no. Quindi in realtà dobbiamo avere chiaro nella nostra immagine, nella nostra mente, che durante le campagne risorgimentali noi abbiamo avuto carabinieri indossare diversi uniformi. Quella, diciamo, la cerimonia, quella, la grande uniforme col pennacchio per chi era di vigilanza e sicurezza al sovrano, certo, o comunque, diciamo, un pennacchio non lo so, magari, comunque sicuramente uniforme diciamo da cerimonia, quella più importante, quella più, certo, prestigiosa, certo. D'altronde era, certo, proprio un servizio che oggi chiameremmo di close protection, sì, al sovrano, e poi diremmo i carabinieri della polizia militare, che oggi magari indossano la tuta blu da ordine pubblico, all'epoca portavano i pantaloni grigio, come li chiamati tu, marengo, con la banda, con la doppia banda rossa. Esatta, con la doppia banda turchina. Turchina, chiedo scusa. È esattamente questo, hai definito perfettamente le diverse uniformi e anche le diverse situazioni in cui venivano indossate. Cambia ancora nel 44, dunque tieni presente che nel 43 anche l'armata sarda cambia le sue uniformi, non più la marzina ma la tunica, che è una specie di soprabito, una giacca cappotto, fai conto l'iconografia sei mazzini, no? Quelle giacche risorgimentali che arrivavano alle ginocchia, poco sopra le ginocchia, quella era una giacca, non un cappotto, perché poi esisteva anche il cappotto. Quindi era una giacca, ma che si chiamava tunica, e che arrivava a tutto l'esercito. E cambiano i berretti, viene adottato il kepi, anche l'arma dei carabinieri, di smette il berretto polacco e adotta nel 42, appunto, mi pare, il kepi, che non toglierà più fino al 1934, insomma, chiaro, con le varie, nelle sì, sue sì, varie sì, forme. Sì, sì, sì. Certo. Dunque, infine, ero curioso di condividere qualche riflessione sull'Unità d'Italia. In quella fase storica molto complessa, i carabinieri ebbero un ruolo determinante, plasmando i corpi militari con funzioni di polizia, che poi confluirono nell'arma con il Regio Decreto del 24 gennaio 1861. Se noi curiosiamo un po' su internet, già a un primo occhio sembra evidente che tali corpi, costituiti nella fase di passaggio dei poteri dai governi provvisori al regno vero e proprio, non avessero uniformi proprio uguali a quelle dei carabinieri reali del Regno di Sardegna. Come mai? Non era forse necessaria una maggiore assimilazione per creare quell'immagine di un'istituzione presente su tutto il territorio nazionale, come poi i carabinieri riuscirono abilmente a costruire negli anni successivi? Se ci immaginassimo in Romagna, in Umbria e o nell'Abruzzo neo-italiano, probabilmente i carabinieri non avevano le stesse uniformi. Mi sbaglio? È una valutazione errata? Avrei bisogno di un tuo giudizio su questa fase della storia del paese. Grazie. Che è molto importante questa fase, molto importante, fondamentale, perché come sai i carabinieri non svolsero soltanto il servizio, l'addestramento delle gendarmerie, eccetera, quelle formate dai governi provvisori, ma fecero anche il vero e proprio lavoro di intelligence per preparare anche quelli che poi sarebbero stati i plebisciti. Quindi è molto importante, molto più importante di quello che già appare importante, il ruolo dell'arma dei carabinieri, corpo ancora, durante l'acquisizione delle regioni. Delle nuove province, chiamate in allora, momento. Io ci vedo almeno tre motivi sulla tua domanda, tre motivi perché le uniformi, mi dicevi, almeno tre motivi. Il primo, io credo che sia quello di ordine proprio strumentale, cioè si vestivano con quello che avevano, probabilmente mantennero in parte gli equipaggiamenti che già erano propri delle gendarmerie ducali, quindi cambiarono gli emblemi, ma mantennero quelli perché non avevano materialmente gli approvvigionamenti, né Torino poteva mandarli perché non li aveva neanche lui per approvvigionare. Questa è la prima cosa. La seconda, anche perché comunque la forza di polizia doveva essere identificata dai cittadini che erano abituati a quell'uniforme, gli proponi all'improvviso, mentre la situazione politica è ancora fluida, un uniforme diverso, una cosa diversa, li sbandi, tra virgolette, in qualche modo. La terza è, ma così, questa è un po' tirata per i capelli, però mi piace, i carabinieri li stavano, diciamo, di soppiatto, come posso dire, cioè era una presenza ufficiosa, non era ufficiale, non solo, e addirittura quando fanno gli accordi dopo Villafranca, tutte le truppe dell'armata sarda che erano nei vari ducati, eccetera, che erano state chiamate dai dittatori, eccetera, e se ne dovettero andare via perché c'erano gli accordi, no, tra i francesi, gli austriaci, quindi dovettero andare via. E per restare i carabinieri dovettero dimettersi ufficialmente dal corpo e ufficiosamente a rimanere sul posto, ma non potevano rimanerci in qualità dei carabinieri, quindi figurarsi se mettevano l'uniforme loro a queste truppe che dovevano apparire assolutamente luogo, cioè non ci doveva essere nessun legame, tanto è vero che anche i dittatori erano prima i governatori che aveva mandato Carlo Farini, eccetera, che aveva mandato Torino, ma poi lì anche loro si dimettono e diventano dittatori, questo è il problema, quindi anche c'è anche questo. No, è una necessità di carattere di politica internazionale, certo, di politica andava tutelata l'immagine del regno, quindi rispettava gli accordi, però certo, autonomamente, diciamo, certo, questi dittatori si appoggiavano a questi ufficiali congedatisi, certo, dalle rispettive, certo, anche perché c'erano delle clausole specifiche, se le rivoluzioni fossero avvenute autonomamente, nessuno sarebbe intervenuto, quindi non Russia, non Austria, non Inghilterra, non Francia, non nessuno. Ma se fosse intervenuto il Regno Sardo, allora le altre nazioni si sarebbero sentite autorizzate a intervenire anche loro. Perfetto. No, no, chiarissimo, questo è importante, perché attraverso l'uniforme in realtà poi si torna a rileggere in una chiave molto più complessa la situazione di quegli anni, dove era indispensabile che questo regno di Sardegna, in cerca di espansione, rispettasse formalmente le regole del consesso internazionale, e quindi i carabinieri potessero agire non più da carabinieri, ma diciamo da specialisti, ormai diciamo con una nuova patria che era quella dei nuovi ducati, che avrebbero poi aderito al progetto unitario e agli altri stati ancora, insomma. Bene, io direi che possiamo considerare conclusa la nostra chiacchierata su uniformi del Corpo dei Carabinieri Reali della Fondazione dell'Unità. Caro Vincenzo, ti ringrazio molto per la cortesia nell'accettare il mio invito e per la chiarezza espositiva che ti ha sempre contraddistinto. Credo che chi ci ascolti possa guardare con altri occhi, ora più attenti, all'uniforme dei carabinieri, almeno per i primi 50 anni di vita del corpo. Ringrazio chi ci ha seguito fino a questo punto. Vi invito a scaricare e ascoltare gli episodi del podcast in attesa di una intervista extra come quella con il generale Pezzolet. Infine vi aspetto sul canale Telegram Storia dei Carabinieri. Non mancate, a presto!